Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa. Sì, sì. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Buongiorno nuovo, spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E svegliarsi la mattina. Eccoci qua di nuovo insieme per una nuova puntata. Oggi partiamo da una domanda. Vogliamo sapere se stamattina avete fatto colazione o ci avete dato un taglio nella speranza di risparmiare un po' di calorie dopo le abbuffate dei giorni di festa. Chiamateci, perché non sempre le rinunce pagano, anzi a volte ci danneggiano. La colazione, che è il primo pasto della giornata, è uno dei segreti per far rimanere attivo il nostro metabolismo, che a volte può darci l'impressione di rallentare il ritmo. Ci sentiamo così un po' stanchi, affaticati e anche appesantiti, non solo nel giro vita. Ne parleremo in questa prima parte della trasmissione con il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo a Milano, che ci regalerà i suoi consigli per prendere il passo. Ah, Nicoletta dice bene, proprio prendere il passo è uno dei punti focali. Intanto buongiorno e grazie buongiorno per questa puntata, quasi le ultime, no? Siamo agli sgoccioli del 2014. Ma... E a proposito di regali, nella seconda parte della trasmissione impareremo l'arte del riciclo. Secondo un'analisi della Coldiretti, più di un italiano su tre, quindi il 35%, ricicla i regali indesiderati appena scartati sotto l'albero di Natale. E a saperlo fare c'è anche la possibilità di guadagnarci qualcosa. Allora, avete riciclato un regalo? State pensando di farlo? Chiamateci per non sbagliare. Sveglia e caffè, barba e bidet. Se i soldi, come insegna Deborah, fanno girare l'economia, un metabolismo attivo promuove la salute. Allora oggi cercheremo di convincerlo a spendere e a consumare. Infatti, dal punto di vista della salute, possiamo dire che, dottor Speciani, finché c'è spesa c'è speranza, o meglio, finché c'è spesa c'è vita. E quindi noi ci auguriamo di spendere e spendere bene a lungo. Ma a volte, purtroppo, i conti non tornano, il nostro metabolismo sembra poco propenso a spendere e invece più orientato al risparmio. Le ragioni sono tante e diverse, le analizzeremo tra poco con l'aiuto del dottor Speciani, ma intanto voi pensate ad una vostra giornata tipo, cosa mangiate e quando mangiate, perché non basta scegliere gli alimenti giusti, ma è molto molto importante assumerli nel momento giusto, perché lo stesso cibo produce effetti diversi se consumato nella prima o nella seconda parte della giornata. Vero? Basta, prova a pensare ad una 5 dita su una guancia, se sono fatte in un certo modo sono una carezza, se sono fatte in un altro sono uno schiaffo. Bravo, questo mi piace. Dai. L'attività fisica stessa cosa, è sempre un buon investimento, ma non tutte le ore rendono allo stesso modo. Tra poco ne parleremo, intanto chiamateci, raccontateci questa prima parte della vostra giornata. Sono le 11:10, colazione fatta, accennato, saltata, siete andati al lavoro in macchina, fin sotto l'ufficio, avete già fatto qualche passo. Aspettiamo naturalmente esperienze virtuose, non, anzi, vabbè, più quelle non virtuose, quelle che ci piacciono, perché lo stesso numero verde potete utilizzarlo per prenotare i vostri interventi se invece volete liberarvi di un regalo non gradito. Parleremo infatti, come anticipato, dell'arte del riciclo. Un tempo, dottor Speciani, era considerata di cattivo gusto, una cosa da evitare, comunque da non dire, invece oggi è stata in qualche modo sdoganata, forse complice un po' la crisi. Può essere infatti un buon modo per evitare degli sprechi e anche in alcuni casi, pensi un po', per guadagnare qualcosa. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Allora, hanno fatto i conti, dottor Speciani, e si dice che nella settimana tra Natale e Capodanno vengano introdotte circa 15.000 calorie in più rispetto al fabbisogno energetico, il che equivale a circa 2 chiletti. C'è chi li ha già messi in conto alla vigilia di Natale, si rassegna e dice: sai che cosa ti dico, me la godo e poi ci penso dopo la Befana. C'è chi invece in questi giorni pensa di seguire una dieta depurativa, stringata, a volte quasi da fame, con la speranza di perdere quello che a Natale aveva accumulato. E c'è chi invece saltella qua e là, no? Fa delle piccole rinunce quotidiane, ad esempio salta la colazione o la alleggerisce molto. Intanto chiediamo subito ai nostri amici da casa che cosa stanno facendo, quale strategia pensano di adottare. E d'altronde, dottor Speciani, le feste tentano, sono un momento assolutamente piacevole di convivialità, ci sono tante cose buone, eccetera, e poi ciascuno si attrezza e si organizza. No, fanno assolutamente. Poi io prendo il mio esempio personale, le vivo con gioia, le godo in maniera piena, però so che ho un metabolismo preparato, perché in realtà so perfettamente come fanno, presente, i cavalli nei paddock, che sono belli paffuti e con il pelo cicciotto, eccetera, in inverno. Poi invece verso, in modo spontaneo, verso la primavera iniziano un pochettino a smagrirsi e a riasciugarsi, quindi è abbastanza normale anche che l'organismo, abituato dai millenni di povertà, metta su qualche chilo in più sotto Natale. E qui è gioioso farlo, perché ci sono, si prova di tutto, si assaggia di tutto con piacere. Però se si prepara il metabolismo, vuol dire che uno ha mantenuto un'attività fisica durante i mesi precedenti, non l'abbandona, perché certo, tra un pasto e l'altro va a fare una passeggiata, oppure fa corsa, oppure come me stamattina che ho fatto palestra. Stamattina era giusto, insomma, ci voleva, perché bisogna mantenere attivo il metabolismo, per l'appunto, in preparazione dei pizzoccheri che farò stasera. Sì, lo so, questo è per quindi questo però è una scelta logica, cioè si possono mantenere attive le situazioni in modo tale da vivere con gioia anche gli sgarri. Questo è quello che io insegno ai miei pazienti, che dico sempre qui con i nostri ascoltatori, e ci vuol poco: una prima colazione ben fatta, un bilanciamento corretto tra proteine e carboidrati, insomma sono tanti, e soprattutto il movimento, che è un elemento cardinale. Quindi noi vogliamo mantenere attivo il nostro metabolismo per permetterci qualche sgarro. Direi che questo è l'elemento cardinale, cioè noi possiamo tenere stimolato il nostro consumo energetico. Diciamo subito, perché almeno un paio di volte nell'introduzione Nicoletta ha toccato il tema del saltare la prima colazione per cercare di risolvere un problema. In realtà, quando noi facciamo la prima colazione, attiviamo un ormone che si chiama leptina, che deriva da una parola greca che vuol dire magro, quindi diciamola lì, no? Cioè già una cosa che ispira la testa e il corpo. E quando facciamo la prima colazione, entro un'ora circa dal risveglio, ecco che si mette in moto un meccanismo che dice: uè, sono ricco e quindi posso consumare l'energia che sto introducendo, anziché conservarla e metterla tutta nei posti sbagliati. Cioè, adesso non stiamo a dirlo perché è un orario, però cosa dicono? No, Jenny da Salerno, buongiorno, e poi leggiamo Claudia. Jenny, benvenuta. Sì. Perfetto, buongiorno. No, io sono pienamente d'accordo con il medico che ha parlato. Brava, cioè, la prima colazione assolutamente non rinunciare. Anzi, io ci aggiungerei anche uno spezzafame a mattinata, perché così da non arrivare affamati a vari pranzi o cene. E niente, con il giusto equilibrio tra carboidrati e proteine, ok. E il movimento, come è già stato detto, che io faccio regolarmente, ma che magari intensifico in questo periodo, nel senso che se mi devo fare le scale a piedi lo faccio con ancora più motivazione. E chiaramente il giorno di Natale, la sera di Capodanno, eccetera, insomma, qualche sgarro si può fare. Però poi uno magari va a ballare, quindi smaltisce. Secondo me il problema è di base, cioè è l'educazione alimentare, igienica alimentare, comportamentale. Jenny è una vera esperta. Jenny è bravissima. E ci racconta che una buona colazione, tra l'altro, ci mette di buon umore, ci aiuta a iniziare bene la giornata, a mettere in moto il nostro corpo e la nostra mente, soprattutto, come anticipava il dottor Speciani, manda un messaggio forte e chiaro al nostro metabolismo, che rassicurato non rallenta il ritmo ma va a passo sostenuto. E allora vogliamo chiedere a voi se il vostro metabolismo è rock o lento e perché. 800 24 00 24, ci scrive anche Claudia, sono tutte i suoi fans e fan soprattutto della colazione. Mai salterei la colazione. Brava. Tanto più se è un periodo in cui si mangia tanto, proprio per non esagerare dopo. Infatti non capisco perché nelle diete la colazione è ridicola. No, dipende dalle diete. Allora, se volete risvegliare il vostro metabolismo, o perché no, mantenerlo attivo proprio per concedervi qualche sgarro, chiamateci per avere i consigli del dottor Speciani. Dottore, quando noi pensiamo al metabolismo, ci pensiamo perché in diverse situazioni, ma sostanzialmente lo facciamo quando, non cambiando alimentazione, addirittura nonostante qualche attenzione e rinuncia, aumentiamo di peso, oppure non riusciamo a far scendere l'ago della bilancia neppure di un millimetro, oppure pensiamo a un problema di metabolismo quando ci sentiamo spossati, senza forze, senza energie, come appunto se il nostro metabolismo spendesse troppo. Allora, noi oggi a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo a chi ha in programma di aggiustare un po' il proprio stile alimentare per risvegliare il metabolismo, perché magari ha qualche chilo in più, si sente un po' appesantito, ma chi si sente anche senza energie, stanco, perché questa è un po' anche l'altra faccia del metabolismo. Infatti, io credo che la cosa rivoluzionaria che soprattutto in questi ultimi, diciamo, 4-5 anni sta apparendo, sta verificandosi in maniera piena, è quella che non possiamo più considerare il cibo come semplicemente il conteggio delle calorie. Parliamone in termini molto concreti, perché è una lotta che sta nascendo oggi con i vari dietologi, con molti nutrizionisti, perché le calorie di una zolletta di zucchero sono le stesse di una mela, eppure la mela, con la sua fibra, con i suoi sali minerali, attiva dei meccanismi per cui mette in moto anche una dispersione di calore. Ma pensate che bello, uno mangia qualche cosa che per la sua stessa struttura può consentire non solo all'organismo, non solo di dire ho degli elementi, ma posso disperdere energia. Nel paleolitico, cioè partendo dall'antichità, disperdere energia vuol dire che puoi andare a cercare un pascolo nuovo, che puoi andare a cercare una fidanzata, un fidanzato diverso, che puoi andare a cercare a cacciare qualcosa, a raccogliere in giro, ad avere più calore e quindi resistere al freddo. E questa è la differenza, che abbiamo dei segnali e non più solo le calorie. Quindi basta, ne cito una, non so se siamo vicini ai mercati, ma da qualche parte dovrebbe arrivare. No, ci abbiamo ancora, possiamo godercela. Oh, allora ce la godiamo. Diciamo ad esempio un aspetto che è legato alle proteine introdotte nei cibi. Se oggi noi ci mangiamo un gelato, e uno dice, oh che bello, un gelato, calorie ricche. Se noi dentro a questo gelato introduciamo anche delle proteine sane, ad esempio delle noci, che così giusto perché così per mancare, si conferma il dottor Noce, o delle mandorle, così facciamo anche il dottor mandorla, va bene, che è giusto, quindi introduciamo delle proteine e bilanciamo questo alla fine di un pasto, ecco che quel gelato in realtà non arriva ad essere devastante per il peso e per il metabolismo, l'organismo lo considera ancora energetico. Un gelato solo dolce, fatto senza materiale integrale eccetera, a metà ma mattina, se io mangio un gelato alla nocciola o al pistacchio, già che è il mio meglio, gusto preferito, il mio meglio. Gusto preferito è cioccolato, però fondente e pistacchio. Però ci deve, però tutto, allora, però metto sopra la granella, tocchiamo, di noce. A tocchiamo. Parte che adesso il gelato non mi verrebbe tanta voglia, no, con sto freddo. Però l'ho citato apposta, sì, perché intanto col cacao dentro, che è un ottimo strumento che attiva il metabolismo di per sé, non il cioccolato al latte, parlo di cacao noir, e quindi un buon gelato come dice lei, noir, bello, noir. Carino, sì, fantastico. Se un R mi facevano dire brr, che orrore, burro rancido da piccolo, quindi va bene. E quindi usando della granella sopra, che sono comunque proteine buone, in realtà abbiamo un bilanciamento e l'organismo lo recepisce come un segnale equilibrato, e allora a quel punto non lo mette sui fianchi o sul sedere dove giustamente, certo, si accumula, e lo consuma energia. Ma pensiamo adesso che fa freddo, quanto più abbiamo bisogno di questo tipo di meccanismo, cioè di avere la possibilità di disperdere calore. Nell'antichità avevamo ieri bisogno. Abbiamo parlato dei danni del freddo sulla nostra pelle, lei ha sottolineato invece uno dei vantaggi del freddo, perché il freddo, posso mettere la parola attiva al nostro metabolismo, insomma lo scalda? Assolutamente, è un attivatore del sistema simpatico, quindi le nostre catecolamine, che sono tutte le sostanze quelle che in realtà portano un po' anche all'eccitazione, allo stimolo eccetera, in realtà consumano calorie. Non solo, abbiamo un elemento, si chiama grasso bruno. Tutti noi quando siamo grassi abbiamo un grasso biancastro, sì, che aumenta, però abbiamo un grasso bruno all'interno che è un potente consumatore di calorie, e che è quello che ci difende dal freddo, è quello che hanno le gazzelle, i cerbiatti, giusto faccio degli esempi simpatici per pensare a delle persone, delle figure belle, snelle, magre, ok? E in realtà quando attiviamo il grasso bruno riusciamo a consumare calorie che introduciamo eventualmente in eccesso, producendo calore. Questo è fantastico perché... Ed è vero che si produce dormendo a temperature un pochino basse, quindi sì, infatti, non riscaldando troppo le nostre abitazioni? Ma devo dire che tra l'altro in tutti i paesi che sono ecologicamente orientati ci sono dei sistemi automatici dove durante il sonno, proprio perché c'è un abbassamento anche del livello del metabolismo, si abbassa anche la temperatura e normalmente, io penso, non so, alle case in Svizzera, alle case in Norvegia, alle case in Svezia, dove normalmente dice, fa molto più freddo, e perché il riscaldamento lo abbassi? Proprio perché per consentire di mantenersi sani e tonici. Produco grasso bruno. Allora, vi abbiamo dato un po' la teoria, adesso partiremo naturalmente con i consigli pratici, perché a volte il nostro metabolismo rallenta, risparmia, perché senza rendercene conto con il nostro stile alimentare lo invitiamo a mettere da parte invece che a spendere. Ne abbiamo parlato ad esempio per la colazione. Non arriva il segnale che dice al nostro metabolismo, vai, lavora, non preoccuparti. Andiamo a Sara che ci chiama da Brescia, intanto poi al dottor Speciani chiediamo di darci un po' una colazione, un esempio di colazione, ce ne sono di fantastiche nel libro che ha scritto, Colazione Brunch per il benessere, un libro tra l'altro che ha delle ricette fantastiche, molto varie, così lo racconto anche a Sara, e delle bellissime anche fotografie che invitano proprio a sedersi a tavola, fanno venire voglia. Sara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Posso chiedere una cosa, quindi? Certo, siamo qua apposta, sì, Sara, per molto, lei. Molto grazie. Allora, io ho questo problema. Quando mi alzo al mattino e faccio una colazione, che so benissimo che la colazione è il pasto più importante, deve essere abbastanza ricco, ma io non ce la faccio perché mangio due biscotti e mi sento già sazia. Sì. Poi, questo senso di sazietà passa rapidamente. Mi dura per un'oretta e mezza, ma quello che mi chiedo è un problema che poi da questo senso di sazietà passo all'improvviso, ma proprio all'improvviso, a un senso di fame vorace. Allora, Sara, è una situazione da manuale. Grazie, Sara. Fantastico. Allora, ci sono tante persone che al mattino hanno poca fame, oppure se mangiano sono quasi nauseati e poi si apre una voragine. Allora, questa cosa va proprio risolta capendolo anche in un contesto sociale. Oggi la tendenza rispetto ad un tempo è quella di portare il pasto più significativo alla sera. Quindi le persone in maniera scorretta arrivano alla sera dove, non avendo mangiato al mattino, avendo delle fami voraci durante il giorno, smangiucchiando in giro, arrivano dopo le 5 che, come si dice, mangerebbero le gambe del tavolo. No? E quindi si rimpinzano alla sera. Il suggerimento che do a Sara, perché ci vogliono circa 7-8 giorni di cambiamento, leggere il libro che abbiamo segnalato prima perché spiega esattamente come fare, ma soprattutto di alleggerire moltissimo la cena della sera per qualche giorno. Io, scherzando, i miei pazienti che entrano dico, guardi, se lei alla sera si mangia solo una mela e va a letto, le garantisco che si sveglia al mattino con una fame discreta e inizia a mangiare, e poi iniziare al mattino con piccoli spunti, iniziando con, lei mi ha citato il biscotto. Il biscotto è una delle cose più con dentro degli zuccheri aggiunti, che quindi innalzerà la glicemia e dopo un'ora e mezza le farà venire fame. E invece se lei si mangiasse una fetta di pane integrale con sopra un pochettino di prosciutto, oppure delle mandorle sbriciolate, perché ci sono anche vegetariani che vogliono non utilizzare la crema di nocciole animali, la crema di nocciole che è fantastica, che è ricchissima di proteine, e un mezzo frutto, quindi iniziando con poco però bilanciato con le proteine, otteniamo una situazione in cui non avrà più la fame vorace che la colpisce dopo un'ora e mezza. A proposito di proteine, potrei... c'è un quizzettone. Sì, dai, facciamo un quizzettone, così regaliamolo quel libro, lo diamo? Sì, con tanto di dedica sicuramente. Colazione Brunch per il benessere. E io direi, sappiamo, secondo l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, qual è il minimo indispensabile in termini di grammi di proteine ogni giorno che un uomo di 60, o una donna di 65-70 kg deve poter mangiare per mantenere nel tempo l'equilibrio alimentare. Diciamo proprio equilibrio alimentare, perché vuol dire mantenere uno stimolo. Noi possiamo sopravvivere anche con meno, ovviamente, ma per mantenerci sani, tonici, per continuare a costruire muscolo, l'OMS ha dichiarato un minimo di quantità, che non sono quelli dei culturisti, proprio il minimo per ottenere questo. Accetto una risposta in grammi, quindi in grammi. Quanti grammi? Un po'. Sì, ho fatto a spannine, ho allargato, e prima della fine della trasmissione diciamo anche la soluzione, ma aspetto le telefonate. 800 24 00 24, tantissime le telefonate anche oggi, io sono molto contenta, ma le propongo subito un messaggio di Roberto che ci scrive che salta sempre la colazione perché gli viene mal di testa, i brividi e mal di stomaco. Quindi lui si alza e non sta bene. E quindi tutto, no, vorrebbe fare tranne che mettere qualcosa nello stomaco. Allora, questo ritorna un po' al tema che ha presentato Sara, cioè noi non siamo abituati al risveglio mattutino. Questa cosa deve essere guidata da una riduzione dell'assunzione serale. Non vuol dire saltare il pasto della sera, saltare la cena, ma significa... Perché anche è un po' tristanzuolo, ma no, dopo certo. Una giornata di lavoro, arrivare a casa a mangiare proprio così. Però io garantisco che io tendo a fare, a parte i momenti in cui mi incontro con amici o simili, però la mia cena è una cena varia con piccole porzioni. Noi siamo abituati... Inizio sempre, come lei suggerisce, con il crudo vivo colorato. E quelle fantastiche sono diventate, guardi, quasi dovrei scrivere con lei un libro sulle insalate. Ah, fantastico. Gliela butto lì, da adesso così, poi con Deborah fa la parte della economica, io faccio le ricette, lei fa i commenti e voilà. Benissimo. Perché le insalate sono fantastiche, quindi a cena una insalatina, qualche cosa di crudo, vivo e colorato, che comunque può essere anche stuzzicante, non la lattuga sdraiata lì assolutamente, qualche nocciolo, qualche mandorla, qualche seme oleoso, fine, basta, ne abbiamo a sufficienza, andiamo a letto con un po' di fame, ma ci svegliamo al mattino con una voglia di metabolismo stimolato che pian piano addenteremo la coscia del nostro compagno. Si educa. Giuseppina, che a volte non è neanche male. Giuseppina da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Auguri, allora, Giuseppina. Grazie anche a voi e anche buon anno. Che anche sia a lei. Un anno speriamo, sereno. Speriamo, dai. Ecco. Allora. Io purtroppo non sono una donna virtuosa. Brava, brava Giuseppina, ci piace. Non la faccio mai. Sono un po' peccatrice. Vabbè, se i peccati sono questi. Però ho un metodo, non so quanto sia corretto dal punto di vista salutare. Quando so di dover affrontare la cena della vigilia o un pranzo particolare o una cena, il pranzo antecedente che precede, diciamo, il momento lussurioso, sì, lo affronto con una minestra o di lattuga o di cavolfiore, di broccoli, indipendentemente chiaramente dalla stagione. Sì, dalla stagione, certo. Esatto. E poi la sera si lascia andare. Se ho fatto il pranzo luculliano, ceno con frutta, ad esempio adesso mi è capitato di cenare con arance, mangio un'arancia e stop. Ma allora, Giuseppina, allora, si prepara o poi sconta? Cioè, proprio perché lei ha detto, no, un peccaminoso, lussurioso. Vedi, Giuseppina, che chiama da Modena, ma con una parlata che tradisce un'origine più del sud, porta con sé una tradizione che viene ancora dall'antica scuola salernitana, che è proprio quella del, di fronte ad una situazione ricca anche di alimentazione durante il giorno, di fare una sorta di predigiuno. Lì, piccolo, la cosa che mi piace quello che dice Giuseppina, anzi le ricambio gli auguri con gioia. Allora facciamo così, che così le diamo glielo subito, diamo, dai, subito controllare il peso attivando il metabolismo, che sono questi opuscoli. Che vanno a ruba tra gli ascoltatori di Cuore Denari, dottor Noce, posso chiamarla, sì, così, certo, grazie, del dottor Speciani naturalmente, quindi lo facciamo avere a Giuseppina da Modena, perché troverà tantissimi consigli. Quindi Giuseppina ci scriva una mail con i suoi riferimenti e le faremo arrivare questo. Però è brava Giuseppina. Assolutamente sì. Sta facendo una scelta, se si mettesse dentro anche la prima colazione poi sarebbe fantastica. Quindi basta poco. Ma sì, anche perché cosa sta facendo Giuseppina? In realtà inserisce, con la frutta della sera attiva degli enzimi. Noi quando mangiamo delle cose crude abbiamo dentro degli enzimi naturali che facilitano la digestione. È classico, ad esempio, pensiamo ad esempio come si usa l'ananas, se noi mangiamo una cena solo di ananas iniziamo ad avere a ripulirci, altro che plin plin, voglio dire. No? Il famoso ananas che snellisce e dimagrisce, esatto, qualche cosa di vero. Esatto. C'è, cioè, per la bromelina. Esatto, dentro anche altri enzimi, quindi consuma, riesce a bruciare, e soprattutto se mangiamo solo quello, ovviamente, a cena abbiamo un'azione di stimolo sull'organismo che facilita il consumo di quello che abbiamo dentro. L'anticipare con una minestra in realtà corrisponde un po' a quello che si sta scoprendo, cioè la teoria dello short fasting, un breve digiuno che può essere al massimo di riduzione delle calorie per 12-15 ore precedenti, può lanciare un segnale di attivazione ancora all'organismo. Quando si supera quel tempo, come purtroppo fanno le diete ipocaloriche, invece ci diamo delle martellate sulle ginocchia, perché in realtà meno male che siamo stati sulle ginocchia. Cuore cuore e denari. Ti ho perso ad un semaforo, forse mentre attraversavi, ma tu dovevi dirmelo, in silenzio tu mi amavi. Confondono i ricordi, i regali di Natale. E a proposito dei regali di Natale, nella seconda parte parleremo di come riciclarli, perché diciamo la verità, non tutti sono riusciti a fare centro. Voi avete mai riciclato un dono natalizio e come? Su internet, al mercatino dell'usato? Oppure avete avuto un regalo che avete scoperto essere riciclato e come vi siete sentiti? 800 24 00 24, nella seconda parte della trasmissione impareremo l'arte del riciclo. A volte si può pure guadagnare. Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco. È rock o lento il vostro metabolismo? Spiegatela al dottor Speciani, questo significa, dottore, vi sentite con carichi di energia, siete attivi, vivaci, pimpanti, oppure vi sentite un po' più stanchi, sentite in qualche modo di essere un po' infiammati, una parola chiave perché è anche un racconto, un filone di ricerche che vedono proprio nell'infiammazione da cibo un denominatore comune delle cosiddette malattie del benessere. Ne parleremo naturalmente nel corso della trasmissione, ma sono tantissime le telefonate che arrivano. Siete qui che ci raccontate che cosa mangiate, quando mangiate, perché è importante, assolutamente importante. Il dottor Speciani faceva il paragone della carezza e dello schiaffo, anche il momento in cui assumiamo determinati alimenti. Ricordatevi sempre il quizzettone delle proteine. Noi andiamo a Fabrizio da Reggio Emilia che ci chiama per raccontarci. Buongiorno Fabrizio, che... Ma niente, che buongiorno. Che, buongiorno, che ci vuole bene, che ci vuole fare gli auguri, che siamo il suo programma preferito e ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma poi? Ma poi niente, io non riesco a far colazione, tipo, per me, cioè da quando, fin da piccolo fino adesso, ingerire del cibo appena sveglio per me è una tortura. Anche se mangia, anche se mangia leggero a cena, le sarà capitato di saltare qualche volta? Poche volte, però anche se mangio leggero, sì, di solito mangio tanto. Io mangio e beh, tanto, a Reggio Emilia, come si fa a non mangiare che... tanto a Reggio Emilia? Beh, che bontà. Non ho vissuto solo a Reggio Emilia. Vabbè, però l'accento tradisce. L'accento l'ha preso. Senta Fabrizio, quindi lei salta la colazione, quando è che le viene fame e che tipo di fame le viene? Perché anche questo è indicativo. Ma io subito bevo un caffè. Zuccherato o no? Leggero. Questo adesso ne parliamo, vada avanti. Leggero cosa vuol dire? Uno, due? Mezzo cucchiaino. Dai, mezzo, pochissimo. Sì, mezzo cucchiaio, poi... Ah, è diventato già cucchiaio, dai. No, mezzo cucchiaio, mi sveglio a caffè e sigaretta. Poi, alle 9 un altro caffè, alle 10 l'ultimo caffè e comincio a mangiare qualcosa. Ecco, quindi... Io mi sveglio alle 7 però. Quindi ha un, no, un risveglio di fame un pochino lento, diciamo, perché poi alle 10 lui c'ha fame. Guarda, però questa è una situazione, Fabrizio, non me ne voglia, ma è proprio una tipica condizione delle persone che sono degli sugar addicts, cioè dei dipendenti da zucchero, anche se in piccolissima quantità e non tanto dal caffè. È uno dei segnali, prima Nicoletta diceva che significato ha sul metabolismo, si sta scoprendo che mentre ad esempio un dolce completo, avevamo fatto l'esempio prima del gelato con il cioccolato, con la nocciola, con le cose eccetera, ha un significato per il metabolismo differente, lo zucchero, ma attento, non solo lo zucchero che sia mezzo, un quarto o un pezzettino, cioè proprio la dolcificazione, quindi vale anche per i dolcificanti artificiali fondamentalmente, innescano nell'organismo un ricordo di, come dire, di una necessità di fare scorta che noi avevamo ancora nel paleolitico. Lo zucchero, la dolcificazione, il gusto dolce, è uno dei segnali più importanti nell'evoluzione. situazione. Ci ha consentito di sopravvivere a delle situazioni drammatiche quando scoprivamo, i nostri nonni probabilmente anche qualcosa di più, un favo di mele, oppure della frutta, ne facevamo scorta. Però di fatto è un segnale forte che rischia di farci venire solo fame e perdere di vista l'utilizzo di altre sostanze. E io credo che il primo passo per una persona come Fabrizio sia non solo di alleggerire la colazione, ma di iniziare a mangiarsi dei dolci quando ci sono, a Reggio Emilia non manca la forza, però di togliere lo zucchero come dolcificante e anche gli altri dolcificanti. Cioè, se gli piace il caffè, usi il caffè amaro e si accorgerà che qualcosa sul suo metabolismo cambia. Andiamo a Gian Vittorio, che ci chiama da Cuneo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Lì a Cuneo, buon anno, panna cotta, Gian Vittorio, panna cotta, bunette, i dolci a Cuneo non mancano e sono buonissimi. Poi ci sono i cunesi a rum. Esatto. Vede che siamo preparati. Tutte delizie. Tutte delizie. Allora, la mia domanda è semplice. Volevo solo sapere come fa una persona a capire se ha un metabolismo lento oppure veloce. Ma diciamo che ogni persona ha una sua risposta. Quello che già noi capiamo è se una persona è fit, come si dice, cioè è tonica, non tende ad ingrassare. I tre esami fatti col medico non mostrano segnali di glicemia alterata, di colesterolo alterato. Cioè, ci sono anche delle caratteristiche che oggi, per fortuna, con un sistema sanitario nazionale come quello che abbiamo, ci consente di capire anche alcune cose, di fare anche della medicina preventiva. Allora, se ha 25-28 anni e abbiamo la stessa forma che abbiamo poi a 35, a 45, a 50, siamo sicuramente con un metabolismo equilibrato. Il metabolismo non deve essere spinto, deve essere giusto, equilibrato e consentirci nelle diverse situazioni di vivere al meglio. Allora, questo è già un buon dato. Se invece uno scopre che mette su 10 kg perché semplicemente cambia città, che ne perde 6 semplicemente perché si stressa un qualche giorno, e lì bisogna iniziare a fare qualche ragionamento e capire cosa sta succedendo. Tendenzialmente negli anni abbiamo l'impressione che il nostro metabolismo rallenti, ma noi possiamo evitare che questo accada. Lei faceva riferimento all'accumulo di peso, no? Certo. Quanto pesavamo a 18 anni e quanto pesiamo adesso? Ci sono persone che non se ne accorgono, 2 kg all'anno in 10 anni sono 20 kg e quindi cambiano oltre alla forma, oltre alla taglia, anche la forma del proprio corpo. E quindi sarebbe interessante, forse ci aiuta a capire anche qualcosa di più del nostro metabolismo, come è cambiata la forma del nostro corpo. Certo, questo è un altro degli elementi belli, importanti. Tra l'altro adesso mi veniva da ridere un pensiero sulla moda che rifaccio tra poco, però la forma effettivamente, cioè soprattutto l'elemento più critico, è quello tipicamente dell'ingrassamento sulla pancia, cioè quando noi rimaniamo magari con gambe magrette, e lo vediamo, perché ci sono donne che rimangono, tra l'altro le vedi con le gambe che apparentemente sono sottili, poi in realtà sotto sono a tronco, a tronchetto, con la pancia proprio addominale, tipica un degli po' uomini, degli uomini, tipo che uomo. È tipico, esatto, noi vediamo tantissimi quando giriamo per le città, vediamo queste panciotte prominenti di persone che in realtà è una tendenza questa chiara, ad esempio, di anticipazione di fenomenologie o diabetiche o di tipo cardiovascolare, quindi è il grasso più pericoloso. Ecco, lì sì, quando uno si accorge che sta aumentando la pancia senza che aumenti progressivamente il resto, sicuramente un'attenzione maggiore al metabolismo va fatta. Allora, abbiamo Luca da Lecce, a cui chiediamo di attendere pochi istanti, proprio perché vorrei leggere i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, paginate, come si dice. Auguri a tutti, io al mattino caffè brioche, poi più nulla fino a sera, fino alle 20, e faccio il muratore. Commento, grazie, ci scrive Carlo di 49, che ha 49 anni. Commento, mangiati, per partire, inizia a mangiare un mandarino, caffè, brioche con una fetta di prosciutto con dentro della crema di mandorle, cioè aumenta il livello di proteine, ti accorgerai che lavorerai molto meglio durante la giornata e avrai meno fame progressivamente alla sera. Allora, Tommy da Modena fa una colazione un po' particolare, mangia pasta al sugo, minestrone, si avanza passato della sera. Il problema è che appena guardo un barattolo di maionese ingrassa e lui fa fatica anche comunque a calare di peso. Allora, la prima colazione è uno dei momenti che può essere più ricchi. Nella descrizione di Tommy mancano sicuramente le proteine. Una delle cose belle, e tra poco quando risponderemo al quiz che ha definito quante proteine vanno utilizzate almeno nella giornata, è che queste devono essere distribuite nello stesso modo, secondo un articolo che è uscito sul Journal of Nutrition a metà del 2014, devono essere distribuite nello stesso modo, un po' nella prima colazione, un po' nel pranzo, un po' nella cena, o se, come può succedere all'ascoltatore di prima, a prima colazione e cena in maniera però equilibrata. Quindi a Tommy mancano delle proteine da mangiare nel mattino. Tra l'altro abbiamo delle tradizioni: mangia la pasta asciutta che sia integrale, che ha dentro più proteine, e con un ragù, voglio dire, viene da Modena, mancherebbe che non avesse la possibilità di mangiare qualcosa di questo genere. In genere le persone o Modena, Reggio Emilia, che io visito, hanno tutte qualche reattività nei confronti dei salumi, quindi da qualche parte ne trova. E se fosse vegetariano invece volentieri un'aggiunta di tofu, un'aggiunta di mandorle, di nocciole, cioè ci si possono veramente sbizzarrire e trovare anche delle proteine vegetali utilissime. Però Tommy deve mangiare delle proteine in più al mattino, perché carboidrati e proteine non possiamo mai fare separazione netta, certo, tra le due. E a quel punto la maionese non diventa più ingrassante, perché uno può mangiare maionese. Io sono, in alcuni casi mi chiamavano dottor maionese, perché sì, è uno dei miei piatti preferiti, fatta solo con limone, non con aceto, perché ho delle reazioni sui lieviti. Però è un grasso che ben bilanciato, se solo con carboidrati, fa venire ulteriore fame. Se bilanciato in un pasto corretto, dove ci sono giusto tutte le quantità, in realtà non induce questo tipo di meccanismo. Andiamo a Lecce allora, perché ci sta aspettando Luca. Benvenuto e buongiorno, auguri. Grazie, auguri a tutti. Splendida città, già è fortunato a vivere a Lecce. Luca, che ci racconta? Allora, io volevo capire come mai fino al 2004 io ero magro, non facevo colazione, mangiavo male, nel senso che per lavoro mangiavo solo la sera, e diciamo che mi piacciono le cose saporite e non moltissimo le cose sane, quindi le verdure piuttosto che altro. Poi improvvisamente ho preso 15 kg senza cambiare abitudini alimentari, senza cambiare lavoro, senza cambiare città. Quindi il mio metabolismo oggi è probabilmente lentissimo, non lento, e continuo purtroppo a non mangiare bene sicuramente, mangio solo la sera perché sono tutto il giorno in giro, perché faccio il rappresentante. Ma non esagero, però non riesco più a perdere peso. Però Luca, bisogna che lei faccia, ecco, che prenda una decisione. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. Allora, noi vogliamo far muovere, dottor Speciani, il metabolismo di Luca. Ecco, per muoversi deve anche lui darsi un po' una mossa, nel senso di provare a cambiare un po' il suo stile alimentare. Sì. Non c'è verso, no? Ma io vorrei fare un esempio, perché arrivano da me molte signore, che so, 40-50 anni, in cui hanno una storia simile a quella di Luca, in cui mi dicono: ma io fino ai 30-35 stavo benissimo, non facevo prima colazione, non facevo attività fisica, eccetera. E io le guardo e dico: vede, io vengo da una familiarità diabetica, io Attilio, e quindi ho dovuto imparare a combattere con lo zucchero, con l'attività fisica, eccetera, fin da piccolo. Lei è una di quelle che io un po' da piccolo odiavo, perché dicevo: vedi questa qui come sta carina senza fare assolutamente nulla. E cioè, alla fine uno esaurisce il suo buffer, esaurisce, come dire, i buoni sconto, cioè, certo, alla fine poi esatto, il conto arriva. Ed è quello che è successo con Luca, probabilmente, nel senso che Luca aveva una buona struttura fisica, una buona genetica, devo dire che aiuta. Il sud Italia aiuta in genere da questo punto di vista, e poi improvvisamente ha perso. Questo, quello che diceva prima Nicoletta, è uno dei segnali importanti per capire che il metabolismo sta cambiando. Non è un messaggio stupido, è un messaggio potentissimo, un messaggio che va preso. Anzi, è un avvertimento, è l'universo intorno che ti dice: uè, ci dai un'attenzione, ti rendi conto che stai facendo qualcosa che mette a rischio un po' tutta la tua storia e la tua vita. E lei oggi ha tutto il tempo per poterlo fare, quindi può iniziare a camminare, a iniziare a pensare ad una prima colazione colazione del mattino, puoi iniziare a mettere in moto. Luca, davvero, ci conto davvero, perché sarebbe un peccato perdere. Allora Luca diamo assolutamente controllare il peso attivando il metabolismo del dottor Speciani, glielo faremo arrivare a casa, perché ha davvero tantissimi consigli. Ve ne leggo uno, ad esempio come usare le bilance. Dai. Ecco, perché bisogna saperle usare, poi il dolce, il grasso e la fame. A proposito, dottor Speciani, in questi giorni, perché arriva Capodanno, poi ci sarà la Befana, altri brindisi, ci sono anche dei minerali che aiutano il metabolismo dei grassi, degli zuccheri? Abbiamo detto che noi vogliamo attivare il nostro metabolismo per poter permetterci degli sgarri. Sicuramente ci sono una serie di sostanze, parliamo dei minerali, io spesso suggerisco magnesio, suggerisco cromo. Il magnesio ha una bellissima funzione, perché in realtà va a contrastare un po' l'eccesso di latticini, c'è molto calcio nei latticini, e il magnesio va a contrastare, e guarda caso ha un'azione in cui migliora l'utilizzazione degli zuccheri. Lo stesso vale per il cromo. Però vogliamo toccare anche dei cibi funzionali? Sì, vogliamo dirlo? Questo allora, mi piace. La cannella. Ma la cannella, ma dappertutto, tutti i paesi nordici fanno i dolci con la cannella, e uno scopre che la cannella, oltre ad essere un ottimo antiossidante, è un prodotto che abbassa la glicemia, la tiene bassa in maniera naturale. Erano furbi i tedeschi, Hansel e Gretel, quando facevano i loro biscottini, li mettevano, mettevano sì, con la cannella, per l'appunto. Noi giriamo, se giriamo nei paesi nordici, abbiamo questi profumi, certo, deliziosi che arrivano. Ma anche i paesi del sud, lo zenzero ad esempio è un altro dei prodotti che può aiutare. Parliamo naturalmente di zenzero fresco, non di quello candito, fresco, che no, è buonissimo, quello candito, però c'è troppo zucchero. È una disperazione terribile, io mangerei dello zenzero essiccato, si trova, non è facile perché diventa un po' troppo duro, lo zucchero invece lo mantiene morbido. Lo zenzero fresco io lo aggiungo in tutti i miei centrifugati, in tutti i miei frullati di frutta che faccio al mattino, sempre dello zenzero, che all'inizio sembra un po' piccante, in realtà ha una valenza antiossidante potentissima. E in più, lo dico per tutti quelli che non fanno prima colazione, stimola la digestione, quindi se alla sera un po' di zenzero aggiunto, vedrete che al mattino vi svegliate che avete più fame, fate una prima colazione. E poi seria. il curry possiamo metterlo un po', io lo metto, devo dire, un po' dove c'è un intingolino, metto un po' di curry. Io devo dire che ho iniziato a usare della curcuma, degli estratti di curcuma per me ancora una ventina d'anni fa, perché è documentato che la curcuma ha un'azione contro l'Alzheimer e contro il Parkinson, e quindi ho detto, vuoi mai che io è meglio tenersi controllati. Poi in questi ultimi 20 anni si è scoperto che ha un'azione antitumorale, che ha un'azione antidiabetica, che ha un'azione antiossidativa. Ho detto, beh, continuo a prenderla. E ne bastano piccole quantità, non sì, è che uno assolutamente, si deve... piccole no. quantità ogni giorno. D'altra parte, le spezie, lo sappiamo, ci permettono anche di ridurre il consumo di sale. Beh, e questo non può farci che non bene. Può farci che bene. E poi variamo, e quindi ci sediamo a tavola e cambiamo sempre un po' sapore, gusto, e quindi ci sembra di mangiare cose meno monotone. Poi che bello, io ad esempio in qualsiasi posto vada ho mia moglie che va a ricercarsi i curry delle varie zone, dei vari posti, quindi abbiamo anche delle memorie olfattive e gustative, no? Per cui tra i diversi tipi di curry che abbiamo, uno più adatto al pollo, l'altro più adatto alle leguminose, l'altro più adatto a certi... Che raffinatezza! Buono, tra l'altro sua moglie è anche autrice del libro di cui gli ascoltatori mi stanno chiedendo il titolo, si chiama Colazione Brunch per il Benessere, ed è un libro molto interessante perché oltre a darci delle ricette sui tipi di colazione, ci fornisce anche tutta la teoria, ci aiuta a reimpostare il nostro stile alimentare, quindi qualche cosa di più di ricette spiegate in modo molto, no, documentato, ma proprio per cambiare un po', per farci venire voglia di occuparci di noi mangiando bene senza rinunciare naturalmente al gusto. E se posso dirlo, è stato un libro scritto a 6 mani, quindi con mia moglie da un lato, con mia figlia che si sta laureando quest'anno in medicina, e quindi ha dovuto confrontarsi con una praticità, perché a volte noi medici tendiamo a dire delle cose un po' per aria, no? E quindi invece no. Dottor Speciani, avevamo promesso che avremmo parlato anche di attività fisica, è sempre un buonissimo investimento, lo sappiamo bene, ma un po' come succede per la dieta, c'è attività fisica e anche il momento può fare la differenza. Inauguriamo il breve capitolo sull'attività fisica con una domanda di Francesco che ci arriva da Milano, 800 24 00 24. Benvenuto Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti? Allora, io pratico sport in modo abbastanza intenso, diciamo a livello agonistico, quindi mi alleno tutti i giorni, che sia nuoto, che sia corsa, per una durata diciamo di 1 ora e mezza, anche sì, 2 a volte. Fino a qualche mese fa mi allenavo solamente ed esclusivamente la sera, quindi la mia alimentazione era praticamente nulla la sera, perché fisicamente ero in piscina, quindi mangiavo un frutto poi andavo in piscina. Viceversa, la mattina, complice anche la fame che avevo accumulato la sera, ecco, vede, lo dimostra questo, perché Francesco è proprio la dimostrazione di quanto diceva il dottor Speciani: se la cena è molto leggera, è vero che Francesco nuota, ma comunque al mattino, insomma, dai, oro in bocca. Quindi Francesco, al mattino una bella fame da lupo. Esatto, l'alimentazione diciamo triangolare, quindi con una base molto larga al mattino, via via scendendo, andando verso la sera. Bravo. Da qualche mese però è nato il mio figlio e di conseguenza la sera io devo stare a casa a dare una mano a mia moglie, che altrimenti impazzisce, e mi alleno pertanto al mattino. Quindi quello che facevo la sera adesso lo faccio esattamente uguale, sì, al mattino. Alle 7 sono in acqua o viceversa sono a correre. Questo fa sì che la mattina io praticamente non mangio più. E via via questo triangolo che prima aveva la base al mattino ce l'ho alla sera. Arrivo alla sera che scasso il tavolo no. Mi alzo al mattino dovendomi allenare praticamente digiuno. Francesco, e qua c'è proprio un cambiamento radicale. Francesco, un tema importante, perché in realtà l'allenamento, soprattutto lei parla di attività come il nuoto, come la corsa, quindi sicuramente di tipo aerobico prolungato, devono essere fatte a stomaco vuoto e a scorte piene. Quindi è giusto che lei corra al mattino a digiuno avendo una parziale scorta che viene dalla sera prima, però è assolutamente necessaria una prima colazione ricca subito dopo. Come si risolve questo tema? Perché anch'io corro al mattino presto, anticipi di un quarto d'ora la corsa, anticipi di 20 minuti la corsa, cioè in modo tale che possa arrivare a casa dopo la doccia, avere 20 minuti per fare una prima colazione adeguata e ritornare a ribasare il triangolo. Guardi che sarà un appunto focale importantissimo per evitare discussioni con sua moglie, per evitare per migliorare il rapporto e lo studio di la comunicazione sull'alimentazione sana con suo figlio nel corso del tempo successivo, per fare prevenzione sua. Per cui è un invito, però so perché ci sono passato esattamente in mezzo, ormai io vado a correre, ho gli amici del mattino presto, lo sappiamo, e questo però ci deve consentire una prima colazione, quindi mantenere il triangolo che lei saggiamente già manteneva prima. Quindi altri consigli per chi risveglia il metabolismo proprio anche dandosi una mossa, facendo attività sportiva, perché è anche uno dei pilastri, no, per mantenere il metabolismo attivo. Una giusta introduzione, mi è piaciuto, stomaco vuoto, scorte piene. Esatto. Ecco, quali sono le indicazioni che se uno corre al mattino, ad esempio, o fa attività fisica al mattino, deve avere mangiato il giusto, quindi moderato alla sera, però avere delle scorte effettive con cui può correre al mattino, anche a digiuno, tranquillamente, avendo magari mettendo in bocca un pezzo di albicocca piuttosto che qualcosa di questo genere, e dopodiché la prima colazione viene fatta dopo l'attività fisica. Invece, come faceva prima il Francesco che ci ha raccontato, se si fa attività fisica la sera, può bastare uno spuntino, uno spezzafame alle 5 del pomeriggio e poi dopo si fa, non si mangia o quasi per dopo l'attività fisica notturna. Allora, abbiamo i nostri ascoltatori che hanno risposto al suo quizzettone. Allora, andiamo a vedere se Paola da Avellino ha indovinato. Paola, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei e tanti auguri. Complimenti, tanti auguri per la trasmissione che io seguo sempre con molto interesse ed attenzione. Grazie Paola, ci fa piacere. Saluti anche da Deborah, che tornerà il 2 di gennaio. Dottor Speciani, sentiamo la risposta di Paola. Allora, quante proteine? Allora, dottor Speciani, io veramente ho sentito questa notizia qualche tempo fa e spero di averne conservato ancora la memoria. Dovrebbe essere un apporto proteico di sicurezza pari a 0,75 grammi, da 0,75 a 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo. Bravissima, direi che 0,8 grammi a 1 grammo per chilo corporeo, quindi la risposta è giusta e corretta. Bravi! Grazie. Abbiamo anche Roberta da Imperia che invece ci prepara già il numero. Sentiamo se è esatto i grammi che Roberta suggerisce di proteine. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, suggerivo sui 56 grammi. Fantastico, direi che Roberta ha dato il numero giusto, e ben bilanciate al mattino, a pranzo e a cena, e quindi distribuiamole correttamente. Quindi lei che vince, direi. Allora, Paola. Paola, diamo il, se la prima ascoltatrice Paola le diamo il manualino controllare il peso attivando il metabolismo, ma se il dottor Speciani dice che la risposta corretta, precisa, è quella di Roberta da Imperia, esatto. Roberta arriverà a casa colazione brunch per il benessere. Al primo ascoltatore, che cercheremo naturalmente sui nostri SMS, che al 349-238-6666 ha dato la risposta corretta, faremo arrivare a casa l'opuscolino del metabolismo. Dottor Speciani, concludendo, abbiamo in un minuto le regole per attivare il nostro metabolismo. Abbiamo detto quindi abbinare sempre carboidrati e proteine, adesso sappiamo anche quante proteine. Quante lo sappiamo. Scegliere cibi a basso indice glicemico, che vuol dire di ridurre, di aumentare la fibra che c'è all'interno, e quindi utilizzare carboidrati integrali e ricchi di fibra tutti. L'abbiamo già detto durante il corso della trasmissione oggi, abolire la dolcificazione inutile. Mangiate i dolci sani quando potete, quelle 2-3 volte alla settimana, se no togliete di tonno di zuccheri. E poi l'attività fisica, e lo chiederei in maniera specifica dicendo: pensiamo alle volpi quando si rompevano un braccio e restano lì immobili, riducono il metabolismo per stare ferme. Cioè, noi dobbiamo avere questa immagine. Noi non siamo degli animali che restano sotto la neve per 40 giorni per aggiustarci il braccio. Dobbiamo muoverci. Grazie al dottor Speciani, a cui facciamo i nostri auguri. Ci sentiamo e ci vediamo prestissimo con l'anno nuovo. GR. Cuore e denari. Io ti venderei Eccoci tornati insieme in questa seconda parte del programma. Parliamo di regali di Natale che vengono riciclati. Allora, chi di noi non è mai capitato di ricevere un regalo non proprio gradito, peggio ancora, del tutto inutile? Pensiamo al soprammobile inguardabile, alla camicia di taglia sbagliata, i casi sono davvero molti. Allora, parola d'ordine diventa riciclare, come dimostra anche una recente ricerca di Coldiretti. Più di un italiano su 3 ricicla i regali indesiderati scartati a Natale. Si tratta di un business consistente, se si considera che le famiglie italiane hanno scartato regali per un valore di 3,9 miliardi di euro. La grande maggioranza di chi ricicla lo fa a favore di parenti e amici, 85%, ma una buona percentuale, 27%, preferisce invece la beneficenza. Tra i più pragmatici c'è un 12% che li restituisce al negozio cambiandolo o chiedendo un buono, mentre il 17% li rivende su internet. E qui in studio con noi è tornato a trovarci Roberto Liscia, presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Buongiorno e bentornati e auguri. Buongiorno a voi. Una volta si diceva basta il pensiero, oggi in un mondo sempre più 2.0 verrebbe da dire se il pensiero non basta, per fortuna che c'è internet. Anche lei si è trovato a riciclare qualche regalo? Sì, direi proprio ieri. Oggi si può confessare. Oggi mi posso confessare. Proprio ieri avevo ricevuto un paio di scarpe neozelandesi, sì, le Blundstone, che erano fuori misura, e le ho messe su internet tramite una piattaforma eBay. E poi ci insegnerà, perché bisogna avere il regalo da riciclare, però bisogna anche saper vendere. Assolutamente sì, perché non basta mettere il prodotto, bisogna fare tutta una serie di cose che devono essere in qualche misura convincenti, soprattutto convincere che il prodotto è quello giusto ed è quello buono. 800 24 00 24, peccato che l'ha già messo, se no le piazzavamo noi oggi sui scarponcini. Che numero erano? Magari 45, andavano... un po' fuori Italia. 45 impegnativo. 800 24 00 24, raccontateci quella volta in cui avete dovuto riciclare un regalo. Lo avete fatto mettendolo in vendita su internet, oppure lo avete dato a un mercatino dell'usato, o ancora lo avete girato a vostra volta a un parente o un amico. Chiamateci, il nostro numero verde a disposizione, e ci ha chiamato subito Luciano da Roma. Buongiorno Luciano, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno, bentrovati, buon anno. Grazie. Per il prossimo anno. Speriamo. Luciano, Luciano ha riciclato? No, io non ho riciclato. Mai, non ho riciclato. Mai? No. Devo dire che sono abbastanza... No, anzi, spendo molto tempo a cercare regali per essere originale, per cercare... L'uomo ideale, Luciano. Va bene, comunque, Luciano, allora... No, è successo una cosa straordinaria, che a Natale è arrivato questo zio di mia moglie che non vedevamo da tanto tempo, e dopo il pranzo c'è stato lo scambio dei piccoli regali che ci si fa così, e a mia moglie da questo zio è arrivato un libro. Lei contenta, insomma, ha accettato il libro, qualsiasi cosa fosse, no? Ha aperto il libro ed erano i racconti di Kafka, un libro diciamo abbastanza banale, certo, no? Ma la cosa succede, e poi l'ha messo via e siamo tornati a casa e lei ha aperto la prima pagina di copertina e c'era una dedica fatta da un'altra persona allo zio un anno prima. Proprio neanche esatto, ma non solo, guardiamo in fondo e c'era scritto copia omaggio regalata da un giornale in passato. Pazzesco, proprio un doppio riciclo senza alcuna attenzione, perché si può riciclare. No, spudorato. Ecco, si può riciclare, però con garbo. Grazie Luciano, buon anno e auguri. Buon anno, arrivederci. Presidente Liscia, lei ha notato un aumento di annunci in questi giorni per riciclare i regali, per anche liberarsi di magari di oggetti che sennò rimarrebbero nelle nostre case a prendere polvere? Ma addirittura c'è alcuni siti che hanno creato un'area speciale per il riciclo dei regali di Natale, quindi se uno guarda i prodotti più venduti, per esempio i droni, che sono stati, come sappiamo, uno dei prodotti che ha avuto un maggiore successo come regali di Natale, sì, c'è un'esplosione di droni venduti sulle piattaforme di scambi e di vendita di prodotti tra consumatori. Quindi oggettivamente quello che è successo quest'anno è che, essendoci stato circa 10 milioni di consumatori che hanno comprato regali di Natale con un incremento di 2 milioni, io calcolo che almeno un 300-400 mila persone abbiano rivenduto parte dei loro regali di Natale su queste piattaforme come eBay, per esempio, che permettono ovviamente di recuperare anche un po' di quanto è stato non incassato. Si può anche guadagnare qualcosa, però come dicevamo bisogna saperlo fare. Che cosa, per rivendere un oggetto su internet, cosa serve? Qual è l'occorrente? Ma intanto l'oggetto. Bisogna avere l'oggetto e accertarsi che l'oggetto sia un oggetto non originale, in maniera tale da garantire il consumatore a cui viene rivenduto che quello sia un oggetto in qualche misura non trafugato, non piratato. Sì. La seconda cosa importante è sapere descrivere l'oggetto, e quindi bisogna sapere l'italiano, perché bisogna in qualche misura raccontare, diciamo, i pregi di questo oggetto, perché una delle cose che su internet si dimentica è che internet è un po' uno strumento che manca di colloquio, di capacità di comunicazione, quindi bisogna saper comunicare i pregi dell'oggetto, non basta mettere semplicemente l'etichetta. Scarponcini. Poi adesso lei ci racconta che cosa ha messo per i suoi scarponcini. Ma con grande piacere, io ho scritto che questi scarponcini sono scarponcini ideali per il tempo libero, casual, che hanno una straordinaria aderenza al terreno, cosa che è vera, e che per di più riescono a essere utilizzati in qualsiasi condizioni atmosferiche. E quindi ho descritto, voglio dire, quello che io ho capito e so di questi scarponcini, e devo dire che in pochissime ore sono già aumentate le richieste di acquisto. Naturalmente ho messo una cifra molto più bassa della cifra che è l'altra cosa che bisogna saper fare, bisogna mettere una cifra se il prodotto è nuovo, almeno il 30% 35% in meno rispetto al prodotto il prezzo a cui normalmente viene venduto il prodotto stesso. La terza cosa molto importante da fare è saper scrivere e fare delle fotografie che siano molto ben fatte, in maniera tale che si veda bene l'oggetto. Buona alla prima, lei ha fotografato, è andata bene oppure ha dovuto farsi aiutare? No, beh, ormai con questi smartphone si fanno delle fotografie. I suoi scarponcini fiammanti sono lì che luccicano sul web in maniera incredibile. Certo che 45 è un bel piede. Sì, ma non è il mio, perché per quello infatti, che peccato, neanche il mio, dovrei mettere anche un po' di cotone, ma sarebbe davvero troppo. 800 24 00 24, se volete imparare l'arte del riciclo, ma anche se volete raccontarci se avete avuto dei regali riciclati e soprattutto che effetto vi ha fatto, come ci siete rimasti, come l'avete scoperto. L'amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due. Vabbè, l'amico magari è quello che dovrebbe anche conoscerci bene, quindi evitare di regalarci uno scarpone della taglia differente alla nostra, no? 45. Oppure, insomma, dovrebbe conoscere i nostri gusti. Invece anche a volte l'amico sbaglia, addirittura l'amico a volte ci rifila un regalo riciclato. E se lo scopriamo, diciamo la verità, un po', no? Ci fa un po' male. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, nostro amico e amico del nostro Daily Lab, di cui, lo diciamo, è una colonna. Buongiorno e auguri. Buongiorno, auguri anche a tutti i nostri ascoltatori. Scoprire di ricevere un riciclo ci mette un po' in crisi, no? Perché in qualche modo dice: ma come, proprio a me? Ma come ha fatto a non pensare che avrei potuto sgamarlo? Certo, e mi ricordo in particolare una signora mia paziente che c'era rimasta malissimo perché le era stato riciclato 2 anni dopo il regalo che lei aveva fatto a questa persona 2 Natali prima. Per cui chi la fa l'aspetti. Un imbarazzo assoluto, ecco. Allora abbiamo subito Elena dalla provincia di Pordenone, sentiamo che cosa ci dice. Elena, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Mi avete già anticipato nel dire che secondo me regali riciclati non vanno bene. Mm. Bisogna saper fare le cose bene, altrimenti, come avete detto, si viene sgamati. Io ho una cognata che ricicla i regali. Per esempio, già come ha detto cognata, io non so se il presidente, anche il dottor Aquilar, ha letto questa inflessione di cognata. C'era qualche cosa. Mia cognata, va bene. Che fa queste cose, che ricicla, non si fanno queste cose. Ad un anniversario di matrimonio, un 50° di compleanno, regalare una catenina d'oro riciclata e anche un po' sporchetta. Non si fanno. E anche cose. Sporchetta. E anche sporchetta, ma dai. Ma invece che riciclarla, vedi, in questo modo però internet forse ci aiuta, presidente, perché magari riciclarla ad un amico, come fa la cognata di Elena, sembra brutto. Invece se noi lo passiamo su internet ce ne liberiamo, guadagniamo anche un po'. Io fra l'altro invito tutti ad utilizzare internet per rivendere i regali, perché non si corre alcun pericolo, si impara ad utilizzare un mezzo straordinario, si recupera un po' di denaro e poi si può utilizzare quel denaro per comprare un regalo originale. Cosa di meglio c'è che utilizzare ormai questi strumenti, che si possono utilizzare anche addirittura sul telefonino, perché ormai il 30% delle operazioni su internet si fanno sul telefonino, e si può rivendere il proprio prodotto riciclato addirittura in metropolitana o in treno dal proprio telefonino facendo la fotografia. Allora qua abbiamo bisogno del dottor Aquilar, perché vogliamo tratteggiare un profilo sia del riciclatore. Sì. E anche spiegare quella sorta di fastidio, uso un eufemismo, che avvertiamo quando, perché all'inizio ci dà fastidio, poi magari ci facciamo una risata sopra, quando scopriamo che proprio la nostra cognata oppure la nostra amica ci ha gabbato e ci ha rifilato un regalo riciclato. Dottor Aquilar. Ma certo, le cose possono essere anche un po' peggio, nel senso che alcune persone poi si fanno la fama del riciclatore, per cui vengono derisi da tutti alle loro spalle. Ecco perché è un problema. Naturalmente è diverso se viene fatto un acquisto su internet, certo. Perché nell'acquisto su internet c'è un'intenzionalità e l'idea è quella di fare una cosa carina, adeguata a quello che la deve ricevere, magari risparmiando un po' sul prezzo oppure potendo offrire con lo stesso prezzo un regalo migliore. La fama del riciclatore è micidiale e si porta appresso tutta una serie di giudizi negativi e di derisioni. Dopodiché, ovviamente, se è un familiare o un amico a cui vogliamo bene, gliela perdoniamo, ma diventa un perdono che tutte le volte poi si trasforma in un'ennesima risata alle spalle all'ennesimo riciclo che riceviamo. Roberto ci scrive che ha provato a riciclare sua suocera su eBay, ma niente da fare. Presidente Liscia, lei non ha consigli per il riciclo di suocere o di cognate come Elena? Non tutto si può vendere, come dicevamo prima, il prodotto deve essere quello giusto. Dottor Aquilar, questo presidente Liscia non le manda dire? Ma certo, è meglio dire le cose, come dire, esplicitamente. Tra l'altro, ecco, anche si dice, a proposito di dire le cose, guarda che ho scoperto che era un riciclo? Assolutamente no, perché questo cambia completamente relazione, nel senso che mette l'interlocutore in un'enorme situazione di difficoltà. Possiamo dirlo solo se abbiamo deciso di rompere. Se tu ricicli i regali, io riciclo l'amicizia e faccio amicizia con un altro, ma tranne che in questo caso può non convenire raccontarlo, e questo è il motivo per il quale i riciclatori si fanno una fama di derisione alle spalle. Ma il punto è che il riciclatore in genere potrebbe supporre di essere più furbo di chi riceve il regalo, ed è questo che fa andare su tutte le furie chi lo riceve al primo posto. Dottor Aquilar, in conclusione ci saluti con un paio di consigli non riciclati, come sempre. Il primo consiglio deriva proprio da una ricerca carina pubblicata sul Journal of Experimental Social Psychology, che dice che noi dovremmo chiedere alla persona quello che gli fa piacere ricevere, perché è stato dimostrato che così abbiamo molto più successo, con una ricerca molto carina fatta da Gino e Flynn, due ricercatori molto brillanti. Il secondo è che se non abbiamo il coraggio di chiederlo, dovremmo cercare di immedesimarsi in quello che può piacere a chi riceve il regalo, e dirgli anche con umiltà che possiamo avere invece sbagliato, che se avessimo sbagliato siamo pronti a modificare la cosa, ma quello che conta è ti voglio bene dietro il regalo. Grazie dottor Aquilar. Grazie a voi. Un abbraccio grande e tanti auguri. Auguri a tutti, un abbraccio grande. Noi torniamo a noi e ai prodotti che mettiamo in vendita. Ci sono vantaggi, possiamo liberarci dell'oggetto, non dobbiamo offendere nessuno, quindi l'amico non si spazientisce. Possiamo anche ricavarci qualcosa, qualche granellino di euro. Ma oltre a questi vantaggi, quali sono quelli che l'e-commerce offre al consumatore, al venditore, al riciclatore? Beh, intanto la possibilità di avere un pubblico di potenziali acquirenti che ormai è fatto da 16 milioni di potenziali consumatori. Sì. La possibilità di semplicemente fare con pochissimi gesti la messa in vendita del proprio oggetto, la possibilità poi ovviamente di farlo in qualsiasi momento della giornata, che è una cosa incredibile, voglio dire, 24 ore su 24. Uno si sveglia la notte, soffre di insonnia e decide di vendere. Ti riciclo il vaso cinese. Il vaso cinese, che è una cosa stupenda. La possibilità di incassare i soldi direttamente sul proprio conto, quindi non avere nessun pericolo di non vedere i soldi di cui ha chiesto l'importo corrispondente al proprio prodotto che vuole mettere in vendita, e poi la possibilità di ricomprare il prodotto giusto per dare alla persona il prodotto che, come diceva prima il professore, è corrispondente ai suoi desiderata, ai suoi desideri. Quindi di fatto oggi internet, ma addirittura ci sono dei siti che possono permettere, mettendo alcune informazioni, di individuare quello che il cliente o il proprio amico o il proprio parente desidera. Ma cioè, magnifico. Ci sono addirittura dei siti che permettono di costruire quello che è il profilo del proprio parente o quello che potrebbe essere il regalo più giusto da indirizzarli. Nel senso che bisogna sapere utilizzare oggi questi strumenti per gestire anche una vita che sta diventando molto consumeristica, perché arrivano ormai ai figli, nipoti nostri e dei nostri amici quantità di pacottiglia di plastica di tutte le nature, che spesso sono ovviamente indesiderate. Vedevo per esempio il successo che ha avuto Elsa, voglio dire, questa bambola di Frozen che ha spiazzato tutte le altre bambole, e naturalmente tutti poi a questo punto acquistano la stessa bambola, e spesso il bambino si ritrova decine o innumerevoli copie dello stesso oggetto. Il consumerismo sta creando anche in qualche misura duplicazione di regali, che naturalmente devono essere gestiti smaltite e gestiti in maniera intelligente da parte della persona. Allora, un ascoltatore ci scrive che il panettone è il regalo di Natale più riciclato, non fa in tempo ad arrivare che nelle mani di un altro. Allora, se voi volete raccontarci qual è secondo voi il regalo di Natale più riciclato, 800 24 0024, un numero che potete anche utilizzare per raccontarci se state riciclando quando pensate, state accarezzando l'idea di riciclare, magari mettendo appunto l'oggetto su internet. Federico, buongiorno da Bergamo e poi Simona da Roma. Federico, benvenuto. Buongiorno a lei. È sempre un piacere sentirvi. Grazie anche per noi. Brevemente quello che mi è successo 27 anni fa, mi sono sposato e io portavo la barba allora, sì, abbastanza lunga. Facciamo il pranzo di Natale con i parenti di mia moglie e questi mi hanno regalato un dopo barba. Ma magari c'era magari c'era un messaggio del tipo tagliati quel barbone. Poteva essere, questo però mi ha permesso di sfruttare stupendamente la situazione. Ho detto a mia moglie: bene, con questi parenti è meglio non avere più nulla a che fare. E quindi da allora ci siamo tolti questo impegno, questo fastidio. Dover passare un fastidio barboso, perché quando dobbiamo passare un pranzo o una cena con dei parenti con cui non abbiamo feeling, diventa una piccola tortura. E quindi dopo il dopo barba ha segnato così la fine di una amicizia parentela. Federico, ecco, auguri. Adesso la barba ce l'ha o no? Tanto mi organizzo magari per il prossimo Natale. Volevo dirle una cosa. Sì. Sulla scorta di questo, di quello che avete anche detto, poi invece con mia sorella e altri amici abbiamo istituito proprio sempre 27 anni fa una festa che facciamo tutti gli anni puntualmente dopo l'Epifania, festa del riciclo, dove ognuno porta le porcate che ha ricevuto, ma a questo punto facciamo una specie di lotteria e le ridistribuiamo, però se non altro diciamo che soddisfazione. Non andiamo a danneggiare nessuno. Cioè, il bello è anzi Federico, ma lei che cosa ha portato oggi quest'anno alla festa? No. Quest'anno, devo dire la verità, non ho ricevuto nulla da riciclare e allora sono andato a cercare in quei negozi cinesi delle cose imbarazzanti, drammatiche, tipo le bamboline che segnano il tempo, quelle cose lì, e allora quando non ha nulla le va a cercare, le cose più brutte, più kitsch possibili. Però diventa una cosa divertente. Un anno ci sono portati a casa una coppia di alani in porcellana, che era una cosa da paura. Cioè. Federico, grazie per essere intervenuto, le auguro una buonissima giornata e buon anno. Altrettanto a voi, è bellissimo sentirvi, grazie. Grazie. Cosa dice Presidente, andiamo a Roma? Ma sì, dai, c'è andiamo Simona, buongiorno Simona. Sì, buongiorno a tutti, auguri. Grazie, anche a lei. In realtà mi ha preceduto l'ascoltatore di prima, perché appunto volevo dire che c'è una mia amica che il 26 di dicembre, quindi la festa di Santo Stefano, organizza la festa del regalo riciclato, dove ognuno ha l'obbligo di portare il regalo più orrendo che ha ricevuto, e a quel punto poi si scambiano con l'un l'altro, con gli altri partecipanti. E io do un brutto regalo a te, tu ne dai uno brutto a me, e si esce con delle brutture sotto il braccio, felici e contenti. Esatto, no, appunto tutta la luce del sole, per cui si sa già che sono regali riciclati, e a quel punto nessuno rimane scontento, anzi ha l'occasione di liberarsi di una cosa che non gradisce. E però ne prende, se ne deve portare a casa un altro, vede che alla fine poi... Sì. Simona, grazie, tanti auguri e buona giornata. Allora, Presidente, per chi è ancora magari un po' dubbioso, dice dai, ci provo, non ci provo, quali sono le indicazioni che lei ci può dare per non avere brutte sorprese? Perché sa che un pochino di timori rimangono sempre, no? Nonostante invece si dica che è una cosa sicura, anzi assolutamente a prova di... Ma i timori ci sono sempre, perché anche nel mondo fisico bisogna fare attenzione in che negozio si entra e che prodotti si comprano, e questo succede anche nel mondo digitale. Nel mondo digitale bisogna essenzialmente rivolgersi a dei venditori o che si conoscono o che siano sicuri o che diano il senso della sicurezza, e quindi o marchi che siano conosciuti oppure siti che abbiano in qualche misura le credenziali. Noi peraltro come associazione abbiamo creato una credenziale, nel senso che diamo un marchio di qualità a quei siti che rispondono a tutta una serie di parametri di qualità e di sicurezza. E quindi possiamo cercarlo? Si chiama sigillo Netcom, e quando si cerca un sito che ha il sigillo Netcom, noi in qualche misura abbiamo già fatto un'analisi di circa 3 giorni di verifiche per verificare che il sito esiste, che è scritto alla Camera di Commercio, che risponda agli 80 criteri che sono gestiti dalle leggi europee, dalle leggi italiane, in maniera tale che il sito sia garantito. E questo dà una garanzia totale al cliente. Io la ringrazio e le auguro una buona giornata, ma soprattutto un anno magnifico e soprattutto sereno. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, è stato molto bello essere qui oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre che vi aspettiamo, e intanto buona giornata. Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi e Isotta Scenna in redazione. Che dire, a domani.